La storia e la memoria di Dino Pesole. Deputati, senatori, rappresentanti regionali, in una parola i cosiddetti grandi elettori, saranno tra breve chiamati a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, dopo le dimissioni formalizzate lo scorso 14 gennaio da Giorgio Napolitano. Dimissioni che chiudono in anticipo il secondo mandato al Quirinale di Napolitano, che nell'aprile del 2013, per la prima volta nella storia repubblicana, è stato rieletto Presidente. Un supplemento di presidenza che lo stesso Napolitano ha definito straordinario. È dunque un appuntamento di grande rilievo politico istituzionale quello che tra breve impegnerà il Parlamento in seduta comune. Vale allora la pena di ripercorrere, sia pure brevemente, la storia dei nostri presidenti, da Enrico De Nicola, primo capo provvisorio dello Stato, a Giorgio Napolitano, appunto. 11 presidenti che con stile e personalità, spesso molto diverse tra di loro, hanno interpretato, guidato, le profonde trasformazioni politiche, economiche e sociali del nostro paese dal secondo dopoguerra a oggi. Lo facciamo in compagnia dello storico Maurizio Ridolfi, autore tra gli altri del libro Presidenti, storia e costumi della Repubblica nell'Italia democratica, pubblicato da Viella. Buonasera professore, benvenuto. Grazie a voi, ci sono, buonasera. Il primo presidente della Repubblica è Enrico De Nicola, fine giurista, un uomo di cultura ottocentesca che di fatto si trova a dover traghettare il paese che ha appena scelto con il referendum del 2 giugno 1946 la Repubblica. Enrico De Nicola riassume nella sua persona i requisiti necessari per ricoprire la carica di capo provvisorio dello Stato. È un uomo del Sud, un giurista napoletano puro sangue, che pur essendo da sempre di orientamento monarchico, non ha nascosto il suo atteggiamento critico nei confronti della corona durante il ventennio fascista. È il pomeriggio del 26 giugno 1946, quando l'Assemblea lo elegge presidente con 396 voti su 504. La sua prima reazione è eloquente. Mi inchino con animo reverente e commosso di fronte alla volontà sovrana dell'Assemblea Costituente. Dopo De Nicola è la volta di Luigi Einaudi, ex governatore della Banca d'Italia, che imprime alla sua presidenza un carattere di grande sobrietà. Gli subentra nel 1955 Giovanni Gronchi, cattolico, democristiano, ma di fatto un battitore libero. Professor Ridolfi, allora De Nicola, Einaudi, Gronchi, i primi tre presidenti della Repubblica già presentano caratteristiche molto differenti tra di loro. Beh sì, intanto i primi due sono accomunati da una cosa che può sembrare paradossale dopo tanti anni da quel momento, vale a dire erano di tradizione monarchico-liberale, erano stati dentro la storia del Regno d'Italia, dentro la storia della monarchia, anche con accenni critici come si è ricordato, e però furono molto abili, accorti nel costruire, impiantare la Repubblica e il ruolo del Presidente nell'Italia democratica. L'altro Presidente che lei ricordava, 1955, Gronchi, siamo già in una fase in cui diciamo l'influenza, il ruolo, il peso dei partiti, le storie personali avrebbero inciso maggiormente, pur nella tutela fortemente rivendicata da Gronchi, che era un cattolico democratico di orientamento sociale, pur dicevo nella difesa di una sua forte autonomia, di una sua capacità di promuovere anche attività sia all'interno del paese sia sul piano internazionale di assoluto rilievo. Ecco professore, dopo Gronchi si insedia al Colle Antonio Segni, una presidenza breve dal 1962 al 64 causata da un ictus. Gli subentra Giuseppe Saragat dal 1964 al 1971. Questa volta è un socialdemocratico, anche questo un segnale di novità. Sì, erano gli anni del centrosinistra. Giuseppe Saragat era stato un personaggio di grande rilievo già a partire dagli anni dell'antifascismo, poi artefice della rottura del mondo socialista, della scelta occidentale. Era comunque un uomo apertamente di sinistra, proveniente dal mondo democratico e socialista, e questo connotava un cambio di fase nella storia dell'Italia repubblicana, appunto con l'apertura verso sinistra, con i nuovi governi che vedevano insieme la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista. Fu abile nel rappresentare il mondo del lavoro, forse, come dire, continuò a piacergli molto la politica, sì. Per cui non abbandonò, diciamo, anche le attività legate al mondo socialista, al Partito Socialdemocratico dal quale proveniva. Nel 1971 si insedia al Quirinale Giovanni Leone. La sua sarà una presidenza anomala, e non solo perché Leone fu il primo capo dello Stato costretto alle dimissioni. Gli anni in cui Leone è al Quirinale sono gli anni delle trame nere, delle bombe al treno Italicus e a Piazza della Loggia, dei complotti, come quello della Rosa dei Venti, del golpe bianco di Edgardo Sogno e Luigi Cavallo, ma anche gli anni degli opposti estremismi, con la morte del procuratore generale Francesco Coco e del sostituto procuratore Vittorio Corsio. Una striscia di sangue che si allunga fino al sequestro e all'uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. A Leone subentra Sandro Pertini, un socialista a puro sangue che scuote le istituzioni. In 7 anni, dal 1978 all'85, Pertini darà un'impronta originale di grandissimo rilievo al ruolo del Presidente della Repubblica. E ora, professor Ridolfi, vorrei analizzare insieme a lei le ultime 4 presidenze, quelle di Cossiga, Scalfaro, Ciampi e infine di Napolitano. Allora, quali le differenze, quali le affinità, per quanto possibile in così breve tempo, vediamo di riassumerle. Beh, intanto la presidenza di Pertini, che si ricordava, fu importante, nel senso che se anche prima abbiamo avuto figure, stili, diciamo, di esercitare il ruolo del presidente anche di forte intervento, beh, Pertini, per la particolare, straordinaria, eccezionale, drammatica condizione che viveva il nostro paese, fu quasi costretto ad intervenire in modo continuo, e però lo fece anche in ragione di un carattere, di una passione, di una voglia di esserci, che lo portò ad interpretare in modo moderno, prima di tanti altri presidenti e esponenti del mondo della politica, i mutamenti della comunicazione. Era spesso in televisione, sapeva starci, sapeva parlare alla gente, aveva un contatto con i cittadini italiani che molti di noi che hanno una certa età, diciamo così, ricordano ancora. Dopo Pertini sarebbe stato impossibile tornare indietro. Certo. E gli altri presidenti hanno dovuto fare i conti con un ruolo della presidenza, del capo dello Stato, che è andato mutando in ragione del fatto che la crisi dei partiti fu tale, fu talmente profonda da mettere al centro della scena pubblica, della scena politica, proprio il ruolo del presidente. E allora Cossiga prima, e poi lei ricordava Scalfaro, Ciampi, Napolitano è sotto gli occhi di tutti negli ultimi mesi, negli ultimi anni, diciamo, al di là della volontà della persona, di chi interpretava in quel momento il ruolo del capo dello Stato, si è visto costretto a intervenire, a dettare spesso addirittura l'agenda della politica nazionale, perché i partiti e, diciamo, i leader di molti dei partiti sulla scena nazionale non sono più stati in grado di fare come in passato. In qualche modo hanno riscritto, se vogliamo, seppur non formalmente, il ruolo del presidente quale previsto dalla Costituzione, per effetto, come lei sottolineava poc'anzi, proprio della crisi della politica. Quando non c'è la politica, il presidente deve svolgere qualche ruolo di supplenza. Ma sì, perché, diciamo, gli articoli della Costituzione che hanno definito al suo tempo le prerogative, il ruolo del Presidente, hanno insistito sul ruolo del Presidente come garante dei principi, dei valori della Costituzione e come simbolo in qualche modo dell'unità nazionale, anche in relazione alla storia del nostro Paese. Questo rimane, questo è rimasto sempre, ma in ragione proprio c'è una diretta sintonia della crisi dei partiti, dell'incapacità dei partiti di costruire consenso, legittimare le istituzioni, i presidenti hanno sì supplito, hanno svolto un ruolo di supplenza forte su questo piano. Secondo me davvero senza che ci fosse una volontà precostituita a monte. È la dinamica del sistema politico, della crisi del sistema politico repubblicano che ha portato i presidenti sempre di più al centro dell'attenzione pubblica. E dunque, professore, un'ultima domanda le volevo rivolgere. A questo punto, sostanzialmente il terreno è già tracciato per il prossimo Presidente della Repubblica, perché la crisi dei partiti comunque perdura. Io credo sia difficile anche in questo caso, come si diceva prima, per il dopo Pertini, ecco, per il dopo Napolitano, pensare ad un presidente che rientra nei ranghi di una figura, se mai è esistita, notarile, notarile, certo, grigia, non credo sia possibile, ma proprio non sarà possibile perché siamo ancora dentro, completamente dentro, una crisi di transizione della nostra democrazia repubblicana che necessiterà ancora di un ruolo forte da parte del Presidente della Repubblica. Bene, la ringraziamo molto, professor Ridolfi, le auguriamo buona serata. Grazie, buonasera. Buonasera.